il predicatore e la sua famiglia. Dobbiamo essere onesti, il predicatore è la persona più in vista di una comunità. Ciò che dice, che fa, e la sua famiglia sono del continuo esaminati e giudicati. In questo non vi sarebbe nulla di strano e di male se la comunità non fosse portata ad averne un'opinione sbagliata. Spesso la moglie si sente dire: «Lei è ben fortunata a vivere con un uomo così», oppure i figli odono parole come: «Che fortuna avete avere un padre simile!» Meno male che il nostro pensiero non si ode, altrimenti chissà quali risposte si sentirebbero. E per togliere ogni possibilità di crearsi dei miti, mi prendo l'incarico di descrivere il carattere di un predicatore prendendo spunto non solo dalle mie esperienze, ma anche da testimonianze, confidatemi. Per prima cosa dobbiamo dire che il predicatore e la sua famiglia sono creature che appartengono alla stessa razza di Adamo, cioè sono peccanti cotestamento, ORI. Questo aspetto dovrebbe essere sufficiente a impedire di crearci opinioni troppo alte o troppo basse relative al predicatore. Tutti possiamo sbagliare, tutti possiamo commettere errori gravi, e il predicatore non ne è esente. Questo aspetto dovrebbe pure servire a non scandalizzarci nella fede, cioè a impedirci di vivere sereni. Pensiamo al re Davide che, benché fosse un uomo di Dio, peccò di adulterio e omicidio. E così Abramo, benché sia il padre della fede, ha mentito e non ha saputo aspettare la promessa di Dio. Infine, ricordiamo Pietro, benché fosse un uomo pieno di coraggio, rinnegò Gesù. Fatta questa premessa, facciamo alcune brevi riflessioni in merito al predicatore e alla sua famiglia. Il predicatore. Ciò che il predicatore è dipende molto da ciò che era prima della conversione. È vero che Dio cambia la vita a chi gli si consacra, ma un uomo franco, aperto, solerte, prima della conversione, mantiene le stesse caratteristiche anche dopo la nuova nascita. Se invece un uomo è introverso e pigro, sarà tendente ad esserlo anche dopo, il messaggio del predicatore risentirà quindi della sua personalità e del passato. C.S. Lewis, il grande apologeta cristiano, non a caso, prima di porre fede in Cristo, era un ateo. Mentre la mia conversione è consistita in un passaggio da religioso, quale ero, alla fede in Cristo, e il mio messaggio privo di morbidezza risente fortemente di questa esperienza. Il predicatore deve essere stimato per il dono da lui posseduto e non per quelli che vorremmo che avesse. Spesso le persone, vedendo come ricordo bene la parola di Dio, pensano che io abbia una memoria di ferro. Purtroppo ho la minima memoria necessaria per poter svolgere gli affari della vita. Devo spesso chiedere a mia moglie di ricordarmi i nomi delle persone, ed è sempre mia moglie, che spesso mi ricorda gli appuntamenti. È come dire vivo nelle nuvole, ma non è così per quello che riguarda la parola di Dio. Anche il re Davide, benché fosse così fedele come padre, aveva delle lacune. Per esempio, non aveva mai rimproverato il figlio Adongia. Infatti, a volte il predicatore è tanto attento al regno di Dio che può mancare nei doveri verso la propria famiglia. Spesso il predicatore viene tentato più degli altri. Avendo il compito importante di edificare la chiesa, il diavolo sa che una volta colpito il pastore, le pecore sono disperse. Le tentazioni che subiscono i predicatori variano da predicatore a predicatore. Uno può essere tentato nella superbia, un altro di essere sedotto dalla bellezza delle donne, altri dalla ricerca di una posizione. Vi è però una tentazione comune a tutti, la moglie. Il predicatore può essere fortemente condizionato dalla moglie che ha scelto. Vi è la moglie giudiziosa, autorevole, rissosa, e del modo in cui l'uomo si rapporta con ella può risentirne il messaggio. Non solo. Secondo l'apostolo Pietro, che era sposato, meno se il marito non onora la moglie, le sue preghiere non vengono esaudite e, io aggiungo, la sua predicazione ne risentirà. Il predicatore può conoscere lo scoraggiamento. I più grandi uomini di Dio si sono scoraggiati, come Mosè, Elia e Davide. Spesso lo scoraggiamento viene perché il predicatore porta un carico troppo pesante, altre volte perché è bersagliato da forti critiche. Geremia aveva un messaggio molto duro e si lamentava con il suo Dio perché lo aveva fatto un uomo di lite. Geremia 15 e 10. Geremia non voleva sempre riprendere il popolo, avrebbe voluto dire altre cose, ma era costretto a portare un messaggio che il popolo non gradiva. Essere un predicatore che parla da parte di Dio non è una cosa facile. Infatti, il più delle volte si disturbano il peccatore e il pigro. Se al predicatore è richiesto molto, alla moglie non si chiede di meno perché il ruolo di questa è determinante. La moglie deve essere e deve sentirsi missionaria. Non è facile stare a fianco di un uomo che ama Dio, perché se lei non ama Dio e non è animata dallo stesso spirito di rinuncia, ne soffre. E, di riflesso, anche il marito. Il predicatore spesso è impegnato, deve compiere viaggi, deve dedicarsi molto allo studio e ciò si ripercuote nel rapporto di coppia. Se la moglie fa pesare al marito i suoi doveri familiari, se si lamenta del suo ruolo di predicatore, ostacola il ministero del marito. Oltre che sentirsi missionaria, la moglie del predicatore a volte dovrebbe sentirsi vedova. Con una grande differenza però. Mentre la vedova non ha il marito, la moglie di un predicatore ha il marito e deve vivere come se non ci fosse. Per quanto mi riguarda, spesso mia moglie ha dovuto chiedere aiuto ad altri a causa delle mie frequenti assenze e mi ha sovente confidato quanto si sentisse umiliata per queste situazioni. Ci sono mogli che si lamentano perché i loro mariti vengono a casa, si tolgono le loro voglie e poi ripartono. Ad una mamma che mi confidava il desiderio che sua figlia sposasse un predicatore, feci presente queste riflessioni, rimase silenziosa e non me ne parlò più. Spesso un altro compito della moglie di un predicatore è tappare i buchi lasciati dal marito. Il predicatore può essere assorbito tanto dalle cose spirituali da dimenticare la dimensione delle cose reali. Sta alla moglie saper ridimensionare ogni cosa. Lutero, spinto sempre da quello zelo che lo caratterizzava, a volte portava a casa 10 invitati per volta senza avvisare la moglie. Una moglie che non accetta questi limiti del marito può anche frenare o impedire la missione del suo compagno e di conseguenza frenare o impedire l'opera di Dio. La moglie del predicatore deve essere spiritualmente forte. Essa è quella che conosce meglio il marito e ne conosce i difetti. Per questo sarà tentata a disprezzare il marito, a mettere in evidenza i lati negativi. Ma una moglie virtuosa farà sempre in modo che suo marito sia onorato da tutti anche. Perché su di lei pesa una verità. Un profeta non è onorato se non in casa sua. La moglie del predicatore, vedendo limiti e ombre del suo compagno, pensa di conoscerlo e ritenerlo incoerente. Ma è meglio lasciare a Dio tali giudizi. Tutti abbiamo i nostri limiti e le nostre mancanze, solo che esse sono più tollerabili in chi non predica. Lo scrittore e psicologo Paul Tournier, che ha condotto molte persone alla fede in Cristo e aiutato spiritualmente migliaia di persone, ha confessato la sua violenza e irascibilità nel suo libro, il cui titolo in francese è Violenza e Potenza, dove confessa che gli era successo di schiaffeggiare sua moglie e di dirle spesso parole molto offensive. Detto da lui, un uomo calmissimo con i suoi pazienti e sempre pronto ad esprimere parole di incoraggiamento, viene da chiedersi se non avesse due facce. Eppure questo fa parte dei contrasti della personalità umana. La moglie del predicatore è l'unica che può veramente aiutare il marito. Lei lo conosce quando dorme, quando mangia, quando digiuna, quando ride e quando piange. Conosce i momenti di vittoria e di sconfitta, e per questo è chiamata a consolarlo, a incoraggiarlo, a fortificarlo, compiti questi non sempre facili, perché anche lei ha le sue giornate, no. Forse è per questo che uomini di Dio e missionari hanno avuto e hanno difficoltà nelle relazioni di coppia. Wesley, il padre del metodismo, ebbe un matrimonio fallito. Quando la moglie di Livington andò a trovarlo, benché non la vedesse da anni, Livington la rimandò indietro. Il prezzo della moglie di un predicatore a volte può essere molto alto. I figli del predicatore I figli del predicatore sono privilegiati, ma non sempre in tutti gli aspetti. Sono privilegiati perché hanno un padre che ama Dio, e solo chi ama Dio è in grado di amare veramente la famiglia. Però, se chiedete il parere dei figli del predicatore al riguardo, capirete che secondo loro è richiesto un di più, non sempre ritenuto opportuno. Infatti, essi sono chiamati alla serietà, all'onestà e all'impegno più degli altri bambini, e questo ai loro occhi rappresenta una responsabilità maggiore che non ritengono necessaria. Il loro grande desiderio è essere dei normali bambini che compiono le comuni mancanze o marachelle, e per questo a volte nella famiglia del predicatore vi è il pericolo che i figli abbiano due vite. Essi accontentano il padre con una vita morale come lui la stabilisce, ma lontani da casa si comportano come gli altri per essere accettati. Spesso il figlio di un predicatore si sente frodato di piaceri che gli altri figli hanno, e succede così che alcuni siano una spina nella carne di chi predica. Ma poiché ogni cosa coopera al bene di quelli che amano Dio, un figlio indisciplinato è un motivo per tenere umile e comprensivo il predicatore nell'esposizione della parola e nella consulenza pastorale. I genitori e i suoi parenti. Se i genitori e i parenti non sono credenti, il predicatore troverà sempre qualche ostacolo o qualche parola di scoraggiamento. Per loro non è saggio lasciare la famiglia per occuparsi di cose che in fondo non sono poi così importanti, e trovano il compito al quale si consacra superfluo, se non inutile. Per loro è meglio dedicarsi e occuparsi di cose più retributive. Quello che è assurdo è che gli increduli trovano buono e giusto lasciare per giorni la famiglia al fine di guadagnare più denaro o anche per dedicarsi a un hobby, piuttosto che trascurarla momentaneamente per la causa di Dio. Ma quello che è ancora peggio è che un predicatore impegnato seriamente nel suo lavoro a volte viene giudicato negativamente anche da alcuni credenti quando mette al secondo posto la famiglia. Questa è la realtà. Una realtà che si fa sempre più evidente in una generazione dove il piacere e i propri interessi hanno il primo posto. Ma il predicatore ha una chiamata, e come ogni altra chiamata, ha il suo prezzo. Chi non è in grado di pagare il prezzo del suo incarico non è adatto al regno di Dio. Novembre 2007. Ellero.